attacco all'Italia. Camera ostruzionismo del PDL per bloccare il DDL corruzione. Mesdames, messieurs, en ce jour où je suis investi de la plus haute charge. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi. Aprire una strada nuova in Europa, così François Hollande, neopresidente socialista che avete appena sentito, e da questa mattina si è insediato all'Eliseo congedando Nicolas Sarkozy. Ci colleghiamo subito in diretta con Marco Mussanè da Parigi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, allora come è andata la cerimonia di insediamento? Beh, una cerimonia molto rigorosa, molto semplice, molto sobria, nello stile del annunciato dal nuovo Presidente della Repubblica. Ecco, lui ha detto aprire una strada nuova in Europa. Sì, nel suo primo discorso da Presidente nel Salone delle Feste dell'Eliseo ha lanciato due messaggi fondamentalmente. Uno sul fronte interno, e cioè su come verrà gestita la presidenza della Repubblica in Francia. Le parole chiave usate da Hollande sono appunto sobrietà, semplicità, giustizia. E l'altro messaggio è sicuramente sul fronte europeo, ha colto l'occasione per ribadire che proporrà ai partner europei, dell'Eurozona in particolare, un nuovo patto che possa coniugare riduzione necessaria del debito pubblico e rilancio indispensabile dell'economia. Quindi sicuramente oggi nell'incontro del tardo pomeriggio con la cancelliera tedesca Merkel questo sarà sicuramente il grande tema sul tappeto. Grazie allora Marco Mussanè, e andiamo invece in Grecia, dove oggi si fa l'ultimo tentativo da parte del presidente greco Papoulias per salvare il paese dal rischio di nuove elezioni e quasi certamente dall'uscita dall'euro. Nel pomeriggio, sotto l'egida del capo dello Stato, nuova riunione dei leader dei partiti allo scopo di riuscire a formare un governo di tecnici che possa traghettare la Grecia per almeno 2 anni. E veniamo in Italia, PIL in calo dello 0,8% nel primo trimestre, il dato peggiore dal 2009, l'Italia in recessione. È un dato, quello diffuso dall'Istat, che certifica di fatto che il paese continua ad essere in recessione. Si tratta infatti del terzo trimestre consecutivo in cui il dato congiunturale dell'economia è negativo, meno 0,8% rispetto agli ultimi 3 mesi dello scorso anno, meno 1,3% rispetto al primo trimestre del 2011. Per trovare un andamento peggiore è necessario tornare al 2009, quando il calo sul trimestre precedente era stato del 3,5%. In particolare segnala l'Istituto Nazionale di Statistica il risultato congiunturale del PIL nel primo trimestre 2012 è la sintesi di un buon andamento dell'agricoltura e di una flessione del valore aggiunto dell'industria e dei servizi. A livello europeo, crescita zero del PIL tanto nell'Eurozona quanto nell'Europa 27. Nessuna sorpresa, spiega l'Eurostat, il valore è in linea infatti con le previsioni economiche pubblicate dalla Commissione europea venerdì scorso, che parlavano di leggera recessione nel primo trimestre 2012 e di graduale ripresa nella seconda metà dell'anno. Crescono invece gli Stati Uniti, che secondo l'Eurostat fanno segnare un più 0,5% nel dato congiunturale e più 2,1 in quello tendenziale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'ABI si scaglia contro Moody's, che ieri ha declassato 26 banche italiane. Irresponsabile, incomprensibile, ingiustificabile. Non usa mezzi termini l'Associazione delle Banche Italiane per bocciare la decisione di Moody's di tagliare il rating su 26 istituti di credito italiani. È un'aggressione all'Italia, alle sue imprese, alle sue famiglie, ai suoi cittadini, commenta l'ABI in una nota puntando il dito contro le agenzie di rating che ancora una volta, scrive, si confermano come un elemento di destabilizzazione dei mercati. E a parlare da Salerno anche lo stesso presidente dell'ABI, Giuseppe Mussa. La premessa macroeconomica ci pare palesemente contraddittoria, perché nell'ultimo giudizio negativo il tema è che il Paese non assumeva le giuste politiche di stabilità di bilancio. Oggi la premessa è che il Paese ha assunto le decisioni in ordine alla stabilità di bilancio, il che determina nel breve periodo una riduzione della domanda. È buona la prima o è buona la seconda? Perché se no non si comprende. Chiediamo con forza che la BCE ignori questi giudizi, conclude Mussari, altrimenti rischiamo un cortocircuito mediatico dal quale non se ne esce più, e domani ci sarà un comitato di presidenza dell'ABI per decidere le eventuali azioni da adottare. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora con Valentina Furlanetto vediamo come stanno andando i mercati finanziari. Buongiorno Valentina. Sì. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. Rispetto alla giornata nera di ieri, i mercati finanziari hanno rimbalzato quest'oggi, quindi positivi. Tra l'altro sono positivi anche i futures sul mercato americano e ci sono delle notizie che arrivano anche da oltreoceano in vista dello sbarco a Wall Street venerdì prossimo di Facebook. L'interesse degli investitori sembra molto forte e il gruppo ha deciso di aumentare il prezzo atteso per il collocamento, quindi aumenterà dai precedenti 28-35 dollari, questa era la forbice fissata per le azioni Facebook, a 34-38 dollari, quindi un aumento per questa IPO molto attesa a Wall Street. Dicevamo, i mercati finanziari in Europa molto bene: Parigi più 0,48%, Francoforte più 0,11%, Londra più 0,17%, ha ripiegato in negativo, ecco, proprio poco fa Piazza Affari, con il FTSE MIB che cede lo 0,1% in questo istante. La giornata è tutta concentrata di Piazza Affari intorno a Salvatore Ferragamo, che ha annunciato una trimestrale positiva più 1,87%, prima Ferragamo aveva avuto un rialzo del 2,5%, Campari più 1,68%, questi sono i migliori titoli del listino, seguita da Fiat Industrial più 1,37%, anche Fiat bene più 1,28%, in generale le banche bene nonostante il taglio, come dicevi, del rating di Moody's. Fra i negativi, Monte dei Paschi di Siena meno 3,95%, la Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,68%. Euro sul dollaro 1,2851 ed è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto. Ora andiamo alla Camera. Ostruzionismo del PDL per bloccare il DDL corruzione. Tutti gli aggiornamenti in diretta da Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Procedono a rilento i lavori in commissione congiunta affari costituzionali e giustizia alla Camera. Il disegno di legge sulla corruzione per l'ostruzionismo del PDL o solo un andamento a causa della raffica di interventi del partito di Berlusconi è stato votato questa mattina. È in atto un ostruzionismo sciocco e becero, commenta Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori. Per Donatella Ferranti PD è un ostruzionismo vergognoso, il cui unico scopo è portare in aula il vecchio DDL Alfano. Dal canto suo il PDL parla di assalto giustizialista e allarmante la pervicacia con la quale si stanno violentando i principi di diritto che sono sempre stati il patrimonio del paese, dicono dal PDL. Si dice però preoccupata la presidente della commissione giustizia Giulia Bongiorno di Future Libertà. Il mio auspicio, dice, che si riesca a chiudere senza dilatazione dei tempi. Ritengo importante la seduta di giovedì, quando ci sarà anche il ministro della giustizia Paola Severino. Il testo è atteso in aula il 28 maggio e potrebbe andarci senza aver concluso l'esame in commissione, quindi nella versione arrivata dal Senato. Per il momento qui dalla Camera è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Uniti intorno a Maroni. Il titolo di prima pagina della Padania oggi conferma la vittoria della linea di Roberto Maroni, ormai candidato unico nella corsa alla segreteria della Lega Nord. A un mese e mezzo dal congresso di fine giugno, il Consiglio federale del Carroccio ieri ha sancito il passo indietro di Umberto Bossi, che ricoprirà la carica vita di presidente e fondatore del Carroccio. Vicario dell'ex ministro sarà probabilmente il governatore del Veneto Luca Zaia. Dopo il crollo alle elezioni amministrative, quale futuro politico si preannuncia per la Lega? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto a Curzio Maltese, giornalista di Repubblica e autore di Viaggio nella crisi della Lega. Sentiamolo. È finita la Lega di Bossi. La nuova Lega è la Lega di Maroni e dei Veneti. I Veneti sono stati per 15 anni, come dicono loro, colonizzati dai Lombardi, da Milano, da Varese. Oggi la vittoria di Tosi, i successi di Zaia ripropongono una gestione della Lega in qualche modo paritaria tra Lombardia e Veneto, e probabilmente con questo anche una svolta politica, cioè dall'alleanza di ferro con Berlusconi alla prospettiva che Maroni più volte ha fatto balenare di una Lega come il partito catalano, cioè è in grado di trattare un po' con chiunque, con la destra, con la sinistra, con qualunque governo, pur di ottenere, diciamo, la difesa degli interessi locali. Questa è l'ipotesi, diciamo, migliore di evoluzione della Lega, altrimenti è la disfatta, insomma. Le minacce sono molte sul mercato della politica. Ascolti da record per la 7 con l'esordio di Quello che non ho, il nuovo programma di Fabio Fazio e di Roberto Saviano. La prima puntata è stata seguita ieri sera da 3.036.000 telespettatori, pari al 12,66% di share. E sentiamo Roberto Saviano mentre attacca proprio la Lega. L'anno scorso fu una parola detta durante Vieni via con me a scatenare una polemica gigantesca. La parola era interloquire. Dicemmo che l'Andrangheta cercava di interloquire con tutti i partiti, anche con la Lega. Si arrabbiarono tutti, ci dissero che era inammissibile pensare a una cosa del genere. Invece, il tesoriere della Lega interloquiva e come? Conosceva benissimo i broker del clan De Stefano. Che bello se invece di arrabbiarsi avessero avuto voglia di interloquire con la procura antimafia. Quindi interloquire è una parola che può non piacere, ma è vera. Nel 2020 ci sarà il picco dei decessi legati all'amianto. Il ministro della Salute Renato Balduzzi ricorda le proiezioni epidemiologiche all'indomani delle motivazioni della sentenza Eternit che parlano di una strage consapevole. Da gennaio a Casale Monferrato ci sono stati 35 morti per mesotelioma pleurico e il picco, purtroppo, arriverà solo nel 2020, avverte il ministro Balduzzi. Questi morti si vanno ad aggiungere alle 2200 vittime dell'Eternit che la sentenza depositata dai giudici del Tribunale di Torino ha definito vittime di una strage consapevole. Sapevano i vertici della multinazionale condannati a 16 anni di carcere. Erano a conoscenza dei danni provocati dall'amianto lavorato nei 4 stabilimenti italiani di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli. Ma nonostante tutto, scrivono i giudici, non si sono fermati né hanno ritenuto di dover modificare l'ambiente di lavoro. Inoltre hanno cercato di nascondere e minimizzare gli effetti nocivi. Il loro comportamento, si legge nelle 733 pagine della sentenza, è stato caratterizzato da un dolo di elevatissima intensità. Ecco perché non può essere riconosciuta loro nessuna attenuante. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ben ritrovati da Adriana Fracchia per la seconda parte di GR24, anzitutto i titoli delle notizie principali. François Hollande si insedia all'Eliseo, aprire una nuova strada in Europa, dice. PIL in calo dello 0,8% nel primo trimestre, dato peggiore dal 2009, l'Italia in recessione. Banche declassate, insorge l'ABI, da Moody's un attacco all'Italia. Alla Camera ostruzionismo del PDL per bloccare il DDL corruzione. In apertura parliamo subito del ritorno del terrorismo in Italia. Mentre si indaga sull'area anarco-insurrezionalista per il ferimento di Roberto Adinolfi, uno degli imputati al nuovo processo d'appello in corso al Tribunale di Milano, le cosiddette nuove BR, ha gridato in aula: questo è il momento buono, viva la rivoluzione. Sono in corso i primi passi di una nuova strategia terroristica in forme magari non ancora sperimentate ma pericolose. A mettere in guardia dal rischio di una ripresa dell'eversione armata oggi è anche Pierluigi Bersani. C'è in giro tanta tensione, ci sono problemi sociali enormi e ottime ragioni per essere arrabbiati, ma bisogna stare attenti che strategie terroristiche non trovino terreno fertile, ha detto il segretario del Partito Democratico. Bersani ha parlato a Genova, dove stamattina ha incontrato i lavoratori dell'Ansaldo, che ieri hanno scioperato per dire no al terrorismo e per esprimere la loro solidarietà a Roberto Adinolfi, il manager di Ansaldo Nucleare gambizzato dagli anarchici del FAI. A confermare i timori del segretario democratico oggi sono anche le parole di uno degli imputati del processo d'appello che si sta svolgendo a Milano contro le cosiddette nuove brigate rosse. Viva la rivoluzione, avanti la rivoluzione, questo è il momento buono, ha detto Alfredo D'Avanzo rispondendo dalla gabbia degli imputati ad un cronista che gli aveva chiesto un giudizio proprio sull'attentato ad Adinolfi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani alle 6.30 e alle 13.30 a Italia in Controluce va in onda il reportage di Cristina Carpinelli sulla memoria delle vittime e il ritorno del terrorismo. Mi auguro che non si enfatizzi troppo, che non si dia troppo eco, che potrebbe in qualche modo, di cui questo nuovo terrorismo potrebbe anche autoalimentarsi. A parlare è l'onorevole Sabina Rossa, parlamentare del PD. Sabina Rossa è la figlia di Guido Rossa, l'operaio sindacalista ucciso perché aveva denunciato un membro delle Brigate Rosse. Guido è stato ucciso questa mattina attorno alle 7. A poche decine. Quanto è cresciuta, quanto è maturata la società civile in questo senso nel nostro paese? Sono considerazioni che vengono in mente dopo l'attentato a Roberto Adinolfi dell'Ansaldo di Genova. Ancora Sabina Rossa. È quello che oggi, no? Da più parti si dice il terrorismo può rappresentare un fenomeno di tipo endemico, no? Però è un fenomeno endemico che non si sviluppa autonomamente. Un paese che non è un paese pacificato, dove non abbiamo verità sicuramente e soprattutto sulle stragi, verità parziali sul terrorismo di quegli anni, verità giudiziarie parziali, e poi non c'è mai stata una volontà della società nel suo complesso di fare chiarezza, non c'è stata una volontà neanche a sinistra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con un blitz all'alba, polizia e carabinieri hanno sgomberato stamani la Torre Galfa, il grattacielo abbandonato nel centro di Milano che era stato occupato una decina di giorni fa da un collettivo di lavoratori dell'arte e dello spettacolo per attirare l'attenzione sulla mancanza di spazi culturali. In ordine ascoltiamo le testimonianze di uno degli occupanti di Macao, di Dario Fo e di Basilio Rizzo, presidente del Consiglio Comunale di Milano. Siamo qua, entrando in questo palazzo abbiamo fatto qualcosa che ha spiazzato tutti. Continuiamo a spiazzare tutti. Ci sono mille ipotesi con cui andare avanti, una più bella dell'altra, qua, ovunque in giro. L'importante è che queste mille ipotesi le facciamo tutti assieme e ragionando su qual è il modo migliore per continuare a far vivere Macao, perché questa cosa non si deve fermare. Nessuno sospettava che la polizia fosse così sforazzata, perché proprio qui è fuori di un programma, di una logica. Non c'è nessuna ragione incombente che dovesse spingere la polizia a fare sgombero, non c'era disordine, non c'erano atti osceni. I problemi non si risolvono con gli sgomberi della polizia, non si può invocare la legalità formale per ripristinare l'illegalità sostanziale di chi a fini speculativi sottrae alla città la possibilità di avere risorse per dare spazio alla creatività, alla voglia di cultura che c'è nella nostra città. Penso che la mia stessa giunta adesso dovrà stare molto attenta ai, credo, 30 e più contenziosi che il gruppo Ligresti ha con l'amministrazione comunale. Una popolazione sempre più numerosa e consumi eccessivi stanno mettendo a rischio il pianeta Terra, è quanto denuncia il WWF nel suo rapporto 2012 Living Planet, sottolineando come la domanda di risorse naturali sia diventata insostenibile e stia mettendo sotto una pressione enorme la biodiversità del pianeta. Qatar, Kuwait, Emirati Arabi sono i paesi con la più forte impronta ecologica. Al microfono di Katia Caramelli sentiamo Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia. Abbiamo pensato di fare questo rapporto, contrariamente al fatto che ogni due anni lo facciamo verso settembre, prima della conferenza mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, proprio per dare ulteriori elementi conoscitivi, di informazione e anche di soluzione dei problemi che si dovrebbero e si potrebbero avviare già con la grande conferenza delle Nazioni Unite Rio+20. Stiamo vivendo come se ci fosse a disposizione un altro pianeta. Certamente, questa è l'indagine che nasce soprattutto dall'uso di un indicatore che è l'impronta ecologica, che mette in una sorta di traduzione di quanto noi ogni anno in ettari globali pro capite utilizziamo di risorse bioproduttive dei sistemi naturali, cioè tutti i sistemi naturali che ci danno fondamentalmente da vivere. Questo impatto planetario che l'uomo ha nei confronti di tutti i sistemi naturali è arrivato a un punto che non può più essere sopportato dagli stessi sistemi. Nella ricerca si indicano anche i paesi con più forte impronta ecologica. In particolare le 10 maggiori nazioni, diciamo, del mondo, gli Stati Uniti, il Canada, moltissimi paesi dell'Unione Europea, il nostro stesso paese. Si è svolta questa mattina all'Istituto Virginia Woolf di Roma la giornata della sicurezza, evento conclusivo del progetto Sicurezze Giovani promosso dal Comitato Tecnico Sicurezza di Confindustria. Il percorso formativo è iniziato a settembre. Gli studenti hanno visitato stabilimenti produttivi, ascoltato seminari e testimonianze e oggi hanno presentato i loro lavori conclusivi proprio sul tema della sicurezza. Il presidente del comitato, Samuele Gattegno, al microfono di Lucio Bondi. Un'iniziativa molto bella che è stata organizzata appunto da Confindustria con l'aiuto di Eni, con questo comitato che io presiedo, dove abbiamo fatto questo, più che un esperimento, è un esempio di come si possono formare i ragazzi a scuola sui temi importanti quali la sicurezza, ovviamente non solo sul lavoro ma anche per le strade e anche in casa. E questa è un'idea che abbiamo cercato di portare avanti, ma che vorremmo che fosse estesa un po' a tutte le scuole. Ovviamente noi questo è un messaggio che lanciamo al governo affinché si possa cercare di estendere questa sensibilizzazione a tutte le scuole, alle elementari o alle scuole anche secondarie. Ora vi lasciamo con il nostro consueto appuntamento dedicato agli aggiornamenti dal Giro d'Italia, Voci dal Giro appunto. È invece tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento a regia Roberto Scaltritti, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchi. A GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.